liberati, esplodi tra i tuoi petali. Liberati, liberati, liberati, liberati, liberati, liberati, esplodi tra i tuoi petali. Liberati, liberati, liberati, liberati, liberati, esplodi tra i tuoi petali. Liberati, liberati, rosa infuocata. Rosa infuocata. Thank you.